Beppino Englaro, marzo 2006, ai microfoni di Popolare Network. In famiglia noi c'era un accordo tacito di sangue che nessuno avrebbe potuto disporre della nostra vita senza il nostro consenso e senza prendere in considerazione i nostri valori. Mia figlia non voleva essere curata in queste condizioni, quindi noi non potevamo non farlo, non rispettare le indicazioni che ci aveva dato Leluana per la situazione che si è venuta a trovare. Quindi per noi è stata sin da subito una violenza terapeutica. E Leluana, noi l'abbiamo sempre definita da subito, era un autentico puro sangue della libertà. Per lei essere invasa in tutto per tutto da mani altrui, come aveva constatato lei, il suo amico Alessandro, quando è andato a visitarla nella stessa rianimazione che era capitata a lei un anno dopo, si era espressa chiaramente: mai e poi mai dovete lasciarmi in mani altrui. Aveva l'orrore e l'ossessione di questo. E bisogna ricordarsi che Leluana diceva sempre che mani altrui erano anche quelle dei genitori. Ecco perché noi non abbiamo mai potuto aver cura di Leluana secondo come viene concepito dal senso comune della gente. Per noi un principio non negoziabile è che qualcuno possa disporre di una vita senza il consenso del diretto interessato. Mia figlia era ancora più forte di me, perché io gli dicevo sempre: lei era un autentico puro sangue della libertà, ci differenziavano 29 anni, e io gli dicevo sempre che l'unica differenza fra noi è che lei aveva 29 anni di legnate, che la vita ci riserva prima o poi in meno. Ma come determinazione e come, diciamo, puro sangue della libertà era veramente inarrestabile. Nessuno avrebbe potuto fermare Leluana, come nessuno potrà fermare i genitori. Era un accordo tacito di sangue dentro la famiglia.